1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, alle 7:20 minuti, dai che oggi è venerdì e si sa. Allora, che dobbiamo fare? Qua dobbiamo leggere i giornali come al solito, dobbiamo concentrarci sui temi principali, Roma soprattutto per quel che riguarda la politica, ma anche gli arresti per alcuni presunti jihadisti che volevano immolarsi in Italia. Avremo il procuratore antimafia e antiterrorismo Roberti, nostro ospite, dopo le 8:20. E allora tuffiamoci sui giornali. Le mie lunedì, le venerdì. Ebbene sì, è venerdì 29 di aprile, con l'apertura del Sole 24 Ore. Frena la crescita USA ai minimi da 2 anni, dunque la crescita negli Stati Uniti che segna un freno, il PIL salito solo dello 0,5% annuo nel primo trimestre. E poi le altre aperture: Roma, Berlusconi cambia e sta con Marchini, la rottura a destra, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi sceglie Marchini, Salvini dice ora basta alleanze. Per il Fatto Quotidiano, Berlusconi sceglie Marchini, aiuta il PD, nuovo Nazareno, Renzi, Verdini. Anche per Il Giorno è la svolta di Berlusconi, questo è il titolo principale. Per La Stampa, prove di centrodestra moderato, questo è il titolo principale. Mentre la questione degli immigrati, per l'Unità, il valzer di Vienna, passo indietro dell'Austria, ma contro il muro al Brennero c'è anche l'ONU, è xenofobia. L'apertura invece, ed è la prima pagina, la prima notizia che approfondiremo, sulla retata di jihadisti, per Il Giornale, colpiamo i pellegrini a Roma, i kamikaze sono già tra noi. E così anche Libero invece ha pagavamo i kamikaze, e vedremo tra poco perché. Allora, ieri ci sono stati questi arresti, 4 in Lombardia, ma una coppia è latitante perché da circa un anno si sono trasferiti in Siria dal paese di Bulciago insieme ai 3 figli. Si tratta dei coniugi Koraishi, Mohammed, marocchino, e la moglie, italiana, convertita all'Islam, Alice. Entrambi lecchesi, nel febbraio del 2015 sono spariti dal paese di Bulciago insieme ai 3 figli e si sono arruolati per l'ISIS in Siria. E da una località sconosciuta incitavano amici, compagni del proprio paese a seguirli, usando schede telefoniche di mezzo mondo, ma anche WhatsApp, per convincerli della loro buona scelta. Alice a un certo punto avverte la madre: ti devi convertire oppure non potremo più parlarci. Quindi loro due, i coniugi, marocchino e italiana, sono latitanti in Siria. Mentre sono stati arrestati, sempre nel lecchese, 4 marocchini con cittadinanza italiana, dunque 4 italiani di origine marocchina. Abderrahman, 22 anni, residente in provincia di Varese, che ha perso il fratello Ussama nel dicembre scorso combattendo per le milizie dello Stato Islamico, così dice lui in un'intercettazione, pronto a vendicarsi, a farsi martire per l'ISIS a sua volta. E poi Abderrahman Mutaharik, promessa del kickboxing, operaio in un'azienda di Lecco. Sua moglie, Salma, disposta a seguire il marito in Siria insieme ai figli, vendendo perfino i mobili di casa pur di coprire le spese di viaggio. E infine la sorella di Koraishi, Wafa, considerata l'arruolatrice. E questa è la cellula che di persone che esaltavano il martirio nelle intercettazioni, nei WhatsApp. C'è addirittura l'ordine dello sceicco dell'ISIS che arrivava via WhatsApp a queste persone: non venire in Siria, fatti esplodere lì. E l'aspirante jihadista che rispondeva: giuro, lo faccio in Vaticano. O ancora: voglio colpire Israele a Roma, l'ambasciata. Tutto questo lo dicevano nelle conversazioni WhatsApp, e tutto questo lo potete leggere per esempio a pagina 9 del Corriere della Sera, nell'articolo di Luigi Ferrarella. Ora, si tratta sempre di capire, e chiederemo anche a Franco Roberti, se erano, come dire, propositi, e già qui però ci sarebbe molto da dire, o se erano minacce concrete. Secondo il Corriere della Sera non c'erano dei piani ben congegnati, ma solo dei propositi. Libero invece fa sapere che i due che sono finiti in Siria e da dove incitavano al martirio, come è chiamato da loro, insomma, atti di terrorismo, vivevano in Italia con il sussidio del comune e l'affitto pagato in quanto in casa popolare. La brianzola convertita e il marito avevano anche la bandiera dell'ISIS in casa, un ritratto di al-Baghdadi nella villa messa a disposizione dal comune. E uno dei due aveva anche una pensione di invalidità. E a lei. E quindi la famiglia del Jihad viveva col sussidio e l'affitto pagato. Questo succede e approfondiremo dalle 8:15. Scuola! Ebbene sì! Il giorno in cui è iniziato il concorsone, il giorno in cui, guarda caso, i sindacati hanno proclamato uno sciopero generale 23 maggio, peraltro un lunedì. Ah, beh, insomma, bisogna scegliere un giorno della settimana a caso. Questa volta è toccato il lunedì. A volte capita il venerdì, per esempio. Insomma, così. Comunque, tante supplenze e poco merito. Questo è l'articolo che vi invito a leggere di Claudio Tucci sul Sole 24 Ore, pagina 29, proprio nel giorno in cui c'è stato il via il concorsone con l'assunzione di 63.000 persone. Cosa succede? I supplenti sono ancora 122.000. Nel giorno in cui la scuola italiana torna, dopo 4 anni, a reclutare per concorso i suoi insegnanti, balza agli occhi un altro numero. 122.000 supplenze che si sono dovute assegnare quest'anno, nonostante le circa 86.000 immissioni in ruolo di docenti precari. Una cifra contenuta nella documentazione che il governo ha consegnato mercoledì scorso in Commissione Cultura, rispondendo a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. I supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, cioè il 30 giugno, sono 115.823 più 6.329 con contratto annuale, fanno appunto 122.000, un vero e proprio esercito e più o meno della stessa consistenza rispetto allo scorso anno. E allora, tutte queste assunzioni, come mai c'è bisogno ancora di 122.000 supplenti? Claudio Tucci cerca di spiegare nell'articolo Tante supplenze e poco merito, a pagina 29 del Sole 24 Ore, questa cosa un po' bizzarra. Mentre, attenzione, se siete alla guida, una delle cose più pericolose è il telefonino. Mamma mia, quanti ne vedi a Milano, gli affianchi, magari che zigzagano come degli ubriachi in pieno giorno. Dici, ma perché guida così questo? E poi lo vedi, lui o lei, col telefonino all'orecchio, oppure con i messaggi, le mail. C'è gente che lavora praticamente in macchina, continua a schiacciare come dei deficienti, clic, e poi vanno a sbattere e coinvolgono anche gli altri. Sappiate che da New York potrebbe arrivare una grande novità mondiale. Sara Gandolfi lo racconta, pagina 23, il dispositivo in dotazione della polizia per controllare se chattavi o usavi il cellulare alla guida. Peter Bescapè ha fatto 2 occhi di terrore puro. Come mai, Peter? Hai qualcosa da confessare? Hai qualcosa da nascondere? No, tu il cellulare lo blindi quando sei alla guida? La legge in discussione a New York, ci sono i dubbi sulla privacy, ma vogliono dare in dotazione alla polizia americana e poi forse anche in tutto il mondo il textometro. Cioè vi ferma la polizia, dice dammi un attimo il cellulare, e questo textometro controlla quando è l'ultima volta che hai utilizzato gli SMS o le chat, e se magari viene fuori che l'hai utilizzata 20 secondi prima, magari beccato in autostrada, vuol dire che stavi chattando alla guida. Con il rischio, per chi si rifiuta di dare il cellulare per il controllo, del ritiro immediato della patente. Io sono a favore, favorissimo. Ne parla il Corriere, mentre, ragazzi, qui devo saltare sul giorno, c'è una pagina che altro che mani sul volante. Questa veramente oggi, non so, mani che prudono, mani sulle catene, non lo so. Attenzione, sentite qui l'articolo che mi fa pinzare della giornata. È una pagina del giorno, io non ci volevo credere, l'ho dovuta rileggere 2 volte. Gara shock sulla pelle dei malati. Succede all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo Alessandro Malpelo sul Giorno, ma ne parla anche Libero. Sarebbe stata scoperta una chat su WhatsApp tra due medici e sei infermieri che avevano messo in piedi questo simpatico gioco. Chi infila nella vena del paziente la cannula più grossa vince. Ora, cannula più grossa vuol dire più dolore per il paziente. La cannula, non so, da millimetri minori dava 2 punti, quella un po' più a metà 4 punti, quella un po' bella grossa 8 punti. Il cinico gioco sul telefonino, con un eufemismo lo definisce sul Giorno l'articolista Alessandro Malpelo. Battute grevi tra professionisti abituati a vedere risolvere di tutto. Alcuni scrivevano tra di loro sulla chat: i pazienti non sanno quello a cui vanno incontro. Ora, loro si sono difesi dicendo che era solo un gioco, cioè non hanno mai messo in pratica quello che dicevano via WhatsApp. In realtà non l'hanno mai fatto. Io, sì, mani sul volante, va bene, ma dei medici del genere, se è vero, medici e infermieri, andrebbero presi... No, fermati, dai, perché dopo un rischio grosso. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alino Milan, il giornalista sempre di moda, quindi oggi è petaloso. Mi vuoi far spaccare il video dei messaggi WhatsApp che ho qui davanti, dicendomi petaloso, al 349-238-6666, cari ascoltatori. Potete mandare le vostre sigle. Allora, dicevamo, Roma è la notizia politica del giorno, perché Berlusconi ha abbandonato Bertolaso e converge su Marchini. Tra l'altro Marchini 2 giorni fa, proprio qui a 24 mattino, diceva: no, io sono libero dai partiti, insomma questo approccio non mi piace, eccetera. Però vabbè, questa è un'altra questione. Prima di tutto però dobbiamo dire una cosa, forse è anche un po' colpa nostra, colpa di Oscar Giannino, colpa mia, colpa di 24 mattino, perché guardate che a leggere i commenti, retroscena più importanti, Francesco Verderami sul Corriere della Sera oppure Carmelo Lopapa su Repubblica, è Berlusconi proprio 24 ore fa, dopo aver sentito, o 48 ore fa meglio, Matteo Salvini in radio, qui a Radio 24, ospite di 24 mattino, dire che Renzi ricatta Berlusconi con le storie delle aziende, perché ci sono in ballo soldi, diritti di TV, eccetera. Sentite Francesco Verderami: il gioco è saltato proprio quando Berlusconi ha sentito Salvini denunciare di essere ricattato da Renzi per questioni di affari, riesumando il vecchio conflitto di interessi. Sono nel retroscena di Francesco Verderami a pagina 3 del Corriere. E siccome è impensabile che il segretario della Lega non sapesse che l'attacco avrebbe portato allo strappo, il capo di Forza Italia ha interpretato quelle parole come una dichiarazione di guerra. È insopportabile, ha commentato Berlusconi. E anche su Repubblica, Carmelo Lopapa, pagina 3. Berlusconi invita tutti i suoi dirigenti di Forza Italia: ma avete sentito cosa ha usato dichiarare Salvini, sostenendo il falso, perché da Renzi io non ho ricevuto alcun vantaggio, zero, solo danni? E allude così alla sortita del leader della Lega, che mercoledì mattina in radio, da noi, 24 mattino, ha osato definirlo un leader sotto ricatto del governo Renzi, impegnato a salvare le TV, a lasciarle sane e rigogliose ai figli in vista dell'imminente riforma dei diritti televisivi. Ma vi rendete conto, ha commentato Berlusconi, io dovrei stare con questo qui. Il pranzo si trasforma in quel momento in una drammatica war room. E così via. La scelta, insomma, di Berlusconi: appoggiamo Marchini. Tra l'altro, in questo pranzo, racconta sempre Francesco Verderami, ha esordito così Berlusconi ai dirigenti forzisti: sono molto stanco, perciò scusatemi se mi dovessi addormentare. Così, questo è il retroscena. A proposito, stavolta chi mi sveglierebbe? Così Berlusconi ai dirigenti forzisti. In tutto questo anche Bertolaso si era sfogato un po' prima. Mi hai mandato allo sbaraglio, mi hai candidato con un partito che mi ha voltato le spalle, nessuno mi ha sostenuto. Ma insomma Bertolaso ormai sembra il passato in questo spettacolo che è la campagna elettorale di Roma. E intanto che fa Marchini? Marchini rilascia un'intervista al Corriere della Sera. L'ex premier apre nuove strade. Il vecchio centrodestra è morto. Vedrete che alla fine resteranno solo due candidature, diceva Marchini, e giurava che una sarebbe stata la sua. Ora dice: la scelta di Berlusconi è coraggiosa e generosa verso il nostro movimento civico. E Paola Di Caro gli chiede: scusi, ma il suo slogan non era liberi dai partiti? Noi siamo liberi, dice Marchini, perché siamo forti di un consenso radicato tra i romani. E questa è un'alleanza tra liberi per liberare Roma da chi l'ha ridotta in questo stato. Beh, ma accetterà il sostegno di una lista simbolo col simbolo di Forza Italia? Non ne abbiamo parlato, ma non ho alcuna obiezione al riguardo. Siamo invece e saremo rigidi sulla qualità dei candidati e sono certo che ci troveremo tutti d'accordo. Poi Marchini usa parole di elogio per Bertolaso. L'uomo solo al comando che pretenda di far risorgere Roma è un'idea folle. Dunque serve una squadra di fenomeni e Bertolaso è un fuoriclasse nel risolvere i problemi. Chapeau, è un servitore dello Stato. Insomma, fa capire che potrebbe metterlo anche come assessore in caso di elezione. Nella sua squadra ci saranno politici? Non ho il mito della società civile, ho conosciuto tantissimi politici seri, onesti e con grandi competenze. Insomma, Marchini, Alfio Marchini parla a pagina 5 del Corriere della Sera. Mentre d'altra parte Virginia Raggi, intervistata da Repubblica, da Stefano Cappellini a pagina 4, dice: a Marchini è caduta la maschera, diceva di essere libero dai partiti, invece aspettava solo l'offerta giusta. Poi risponde alle accuse, il suo curriculum, l'accusa di essere di destra. Non è vero, io una volta ho votato anche Italia dei Valori, ho sempre votato a sinistra, dice Virginia Raggi. Riguardo al mio praticantato allo studio con Previti, il mio professore all'università, Pier Emilio San Marco, mi disse: vieni a fare pratica con me. Lui all'epoca lavorava allo studio Previti. Ci ho pensato, non lo nego, mi sono posto al problema, decisi alla fine di lavorare con un professore che stimavo e stimo. E poi ancora, non è che se difendo un cliente berlusconiano riguardo alla sua presenza in una società vicina ad Alemanno, non è che se difendo un cliente berlusconiano allora anch'io voto per Berlusconi. Nella professione non si applica la proprietà transitiva. Virginia Raggi parla a Repubblica. C'è anche Ignazio Marino che torna. Ma ragazzi, ma è uno spettacolo! Lo show delle elezioni a Roma sul Fatto Quotidiano. Per la verità dice una battuta non male. Intervistato da Giampiero Calapà, pagina 3 del Fatto Quotidiano, dice Ignazio Marino riguardo ad Alfio Marchini: è la punta del partito della nazione. Scusi se rido, ma per me Marchini può essere la punta solo sul cavallo mentre gioca una partita a polo. E poi dice: secondo me Giachetti sa benissimo che perderà, molto convinto di perdere, tanto che mantiene la posizione, la poltrona da parlamentare e relativo stipendio da 20.000 euro. Ignazio Marino, insomma, si toglie ancora qualche sassolino dalle scarpe. Insomma, comunque torna al polo, il polo della libertà. Quando effettivamente ho visto rialzare la testa con un'intervista a pagina 3 della Stampa Casini, intervistato da Ugo Magri, il cavaliere graffia ancora con Marchini, e poi rispunta anche Gianfranco Fini, sono cose che fanno meditare alquanto. Mauro Meazza, meditiamo insieme. Meditiamo. Buongiorno, meditate, gente, meditate, te la ricordi. Ma volevo Renzo capire, Arbo, girava questa cosa Bertolaso in panchina. Sì, ma non, esatto. Non l'avete appena cambiato la panchina? Fermati, no. Ci manca solo questo. Non ci questo. Sto capendo più niente. Ci manca, vabbè che risolve i problemi, ma lasciamo stare. Ah, ecco, dicevi adesso appunto che risolve i problemi, pensavo fosse un avvicendamento la ulteriore. La nostra panchina è già occupata, grazie. Va bene, allora guarda, ti segnalo rapidamente sul Sole 24 Ore di oggi, già me ne compiaccio, hai notato il contributo del collega Claudio Tucci che appunto dice che la scuola continua a essere malata di supplentite, mm-hmm, nonostante sì, le cure e che si sono avviate, che insomma paiono non dare ancora effetti, gli effetti sperati. Ma oggi giornatona perché aspettiamo il decreto banche. Oh, oggi nel pomeriggio lungo, diciamo, pomeriggio verso sera. Decreto banche importante anche perché dovrebbe contenere delle modifiche per quanto riguarda il diritto fallimentare, ma trovi tutti i particolari oggi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. Oh, e poi sappi che sono arrivate molto rapidamente, va dato atto, le linee guida dell'autorità anticorruzione per gli appalti. Sai che la legge sugli appalti è appena entrata in vigore, quella nuova, sono arrivate le linee guida e te ne riferiamo dottamente e puntualmente sul Sole 24 Ore di oggi. Poi ti voglio dire che un altro documento di prassi molto importante, ti piace il documento di prassi? Bello, bello. Bello, effettivamente suona elegante. È arrivato all'Agenzia delle Entrate con la circolare sui controlli. Come no? Più comprensione. Allora, è vero. Comprensione sì, però non per i grandi importi. Beh, certo, sì, comprensione per i piccoli importi. Non è che Mauro se ti trovano dei soldi a Panama, ma un milione di euro magari... Tra l'altro vorrei fare un piccolo strappetto radiofisco, perché attenzione anche al ruolo del professionista, perché insomma si dice che se poi è il professionista che consiglia comportamenti non corretti, beh, ne potrà rispondere anche lui questo, ma ne riferiamo appunto anche qui dottamente e tu leggerai religiosamente in norme e tributi, tutti i dettagli della circolare diffusa ieri. Oh, poi invece tornando a Bertolaso, no scusami, al Milan, c'è una cessione allora in due tempi, ne spieghiamo le motivazioni bene, i particolari nelle pagine di finanza, quindi prima un pezzettino e poi il resto. Si vedrà se tutto questo poi va in porto. Ti ricordo, caro Alessandro, che domani con il Sole 24 Ore troverai Plus, il settimanale per il risparmio, anche per i tuoi due eurini. Sì. C'è bisogno di avere somme ingenti, magari in paradisi fiscali, in stati compiacenti. Puoi leggere anche Plus avidamente, come avidamente devi leggere le pagine di finanza. E poi, naturalmente, tanti cari auguri, perché domenica primo maggio è festa del lavoro, sì, quindi auguri a tutti quelli che lavorano, non a noi due naturalmente, che facciamo questi mestieri un po' discutibili. Gli auguri invece per te sono naturalmente per un sereno pomeriggio calcistico. Ti ringrazio. Forse ci sentiamo lunedì. Vabbè. Chissà. Lo scopriremo solo vivendo. Traffico! Alessandro Milan e te li donghisti due euro, basta triste sit però, Vabbè, ho capito che mi vuole dare 2 euro questa signora, non lo so, questa nostra amatissima ascoltatrice che ci ha mandato al 349-238-6666 la sigla da mandare in onda, via WhatsApp ovviamente. E come diceva prima Mauro Meazza, giustamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate che dice i controlli saranno rivoluzionati, insomma basta battaglie sui piccoli importi, di fatto andiamo solo a scovare i grandi evasori e non sprechiamo energie per le piccole situazioni. E Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, rilascia un'intervista a Repubblica, pagina 15, intervistata da Roberto Petrini, dice: bisogna insomma distinguere tra chi è in buona fede e chi no, tra dolo e colpa, tra chi è solo disinformato, distratto e chi è un evasore incallito. Insomma, abbandoniamo le minutaglie e concentriamoci sul grosso dell'evasione. Partiamo dalla stima dell'evasione, il cosiddetto tax gap, che ormai viene calcolato anche nei documenti ufficiali del governo. Ebbene, questo tax gap, che misura la differenza tra quanto si paga e quanto si dovrebbe pagare, non è tutto composto da evasione della medesima tipologia. Insomma, ci sta dicendo che ci sono evasori buoni e evasori cattivi? No, questo è troppo, risponde Orlandi. Diciamo che ci sono moltissimi contribuenti che si trovano nella categoria degli evasori solo per colpa e non per dolo, come si direbbe in diritto penale. Pensi ai casi di dimenticanza, errore, mancata informazione. È assai difficile distinguere se un'azione è frutto della disinformazione o di un comportamento volontario. Molti lavoratori dipendenti spesso non sono a conoscenza dei loro obblighi fiscali quando cambiano lavoro, quando hanno a che fare con le detrazioni, in molti altri casi. Ecco, questi sono evasori? Ci sono diversi tipi di evasione, di questo bisogna tenere conto. Con chi agisce senza dolo può funzionare una strategia di informazione e assistenza per indurlo a un comportamento corretto. Insomma, volete un fisco dal volto umano e lo abbiamo già dimostrato, risponde la Orlandi. Lo scorso anno, in occasione del debutto della dichiarazione precompilata, abbiamo riscontrato che più di 200.000 persone non avevano nemmeno compilato la dichiarazione. Avremmo potuto prendercela comoda, far trascorrere i tempi entro cui è possibile per legge ravvedersi. Invece abbiamo lavorato sodo, abbiamo spedito le lettere, chi ha voluto si è potuto mettere in regola. E non è una questione di concentrarsi su grandi o piccoli evasori. Anche per le grandi aziende è in atto un meccanismo che mira a prevenire l'evasione più che a reprimerla. Oggi con la cooperative compliance è possibile richiedere il nostro parere su grandi operazioni. Ogni mossa che si fa viene preventivamente controllata e le cose filano meglio. Insomma, Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, parla con Repubblica. Mentre parlava al telefono, evidentemente sono 10 soprattutto le telefonate che inguaiano Stefano Graziano, consigliere regionale in Campania, presidente del PD Campano, autosospesosi dopo essere stato indagato per concorso esterno in associazione camorristica. 10 telefonate, racconta Dario Del Porto e Concita Sannino su Repubblica, nelle quali Stefano Graziano parla con l'imprenditore considerato vicino al clan dei Casalesi. Ringraziamenti, auguri dopo le elezioni, contatti, incontri prima delle regionali. Insomma, sono 10 telefonate che fanno discutere. Non fanno discutere Renzi. Ieri ha fatto Matteo Risponde insieme a De Luca, quindi a parlare anche di Campania e di Sud. Un'ora e mezza, manco mezzo secondo dedicato alla vicenda Graziano. Si vede che non saranno arrivate domande, quindi Matteo non ha risposto su questo. Lo fanno notare il giornale, il Fatto Quotidiano, insomma, neanche tace su questa vicenda. Mentre non tace, ed è un'intervista che può far discutere, ma io concordo con lui, in questo caso non lo conosco, ma mi sembra un monito corretto, quello dell'arcivescovo di Ferrara Luigi Negri, che è intervistato da Federico Malavasi sul Giorno, dice: attenzione, basta, non esistono solo i migranti, vedo snobbati gli italiani poveri. Rischiamo la guerra tra gli ultimi, ma gli italiani che vivono in condizioni di povertà sono tantissimi, dice il vescovo di Ferrara. Mi basti pensare alla mia diocesi. Ho visto arrivare insospettabili italiani in giacca, valigetta e cravatta alla mensa della parrocchia. E sono finiti lì perché spesso si tratta di mariti divorziati che, dovendo mantenere moglie e figli, non arrivano più a fine mese, mangiano rapidamente e vanno via. Questo deve farci riflettere. Pensare che basti invocare una leva di massa per l'accoglienza dei profughi copre solo un aspetto di un problema ben più vasto. Se si assumono atteggiamenti esclusivisti, non si svolge il proprio compito corretto di pastori. Insomma, bisogna far fronte anche ai poveri italiani, dice il vescovo di Ferrara Negri. Che dire, che troviamo ancora? Beh, questa è una storia tutta italiana. Gian Antonio Stella è stato in procinto di vincere il premio Mani sul Volante, eh? Succede a Licata, Agrigento, Sicilia, Italia. È arrivata la querela per prefetto e sindaco da parte di coloro che si vedono con il rischio di vedere abbattute le loro ville abusive. Cioè, avete capito? Gli abusivi, con le ville abusive, hanno querelato sindaco e prefetto che vogliono abbattere le ville abusive. Capite l'Italia al contrario? Anzi, come scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, non hanno proposto una querela, hanno presentato un esposto querelatorio testuale, un esposto querelatorio nei confronti di prefetto e sindaco che abbattono le ville abusive. La rivolta antiruspe. L'Italia al contrario. Ma eccoci qui, la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, è un articolo di Maria Laura Rodotà, un'intera pagina su Beyoncé. la cornuta Beyoncé, che tra l'altro dice appunto che il marito Jay-Z, come si chiama, la tradita, nera, orgogliosa, arrabbiata. Beyoncé è la vera icona progressista. Ma chi se ne frega!